Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Secondo le previsioni della Federal Aviation Administration degli Stati Uniti, nel 2020 saranno circa 10.000 gli aerei senza pilota a solcare i cieli statunitensi. La logica alla base di questo fenomeno in crescita è stringente. Gli aerei senza pilota, i droni, insomma, consentono di fare un gran numero di attività che, svolte invece da aerei con a bordo piloti e copiloti, sarebbero insostenibili a causa dei costi. Parliamo per esempio di monitoraggio ambientale, di attività di ricerca in missioni di salvataggio e di una infinità di altre applicazioni. C'è persino chi pensa che questi apparecchi saranno presto in grado di occuparsi della consegna dei pacchi postali. Per fare un esempio, allo stesso prezzo pagato per noleggiare un aeroplano con piloti per monitorare una linea elettrica, un'azienda può comprare un intero sistema di gestione basato su droni aerei e farlo funzionare per anni. Ma a minacciare un futuro luminoso per questi robot con le ali ci sono seri problemi di sicurezza. Così come emerge, insomma, da un bell'articolo molto approfondito pubblicato il mese scorso su Le Scienze, articolo a cura di Kylie Vesson e Todd Humphreys del Radio Navigational Laboratory dell'Università di Austin in Texas. È su questo articolo che si basa la puntata di stasera, che comincia con una scheda. Sentite. Sono ormai numerose le prove che i droni aerei possono essere facilmente hackerati o confusi. Il 2 agosto 2010, un MQ-8B Fire Scout, un drone da 1,5 tonnellate, lungo quasi 10 metri, la cui funzione è la ricerca in mare di navi da guerra nemiche, impazzì mettendosi a girare per i fatti suoi proprio all'interno dello spazio aereo riservato al decollo e all'atterraggio dell'Air Force One, l'aereo presidenziale degli Stati Uniti. La Marina, che riuscì a riprendere il controllo del velivolo dopo 30 minuti di nervi a fior di pelle, parlò in quel caso di un problema di software. Nel maggio 2012, in Corea del Sud, un drone da ricognizione da 150 kg si è schiantato contro la sua stessa stazione di controllo al suolo, uccidendo un ingegnere e ferendo due operatori. Si ritiene che l'incidente sia stato causato da segnali di disturbo provenienti dalla Nord Corea. Sempre nel 2012, i tecnici del Radio Navigation Laboratory ad Austin, presso l'Università del Texas, hanno preso il controllo di un drone da 80.000 euro, interferendo col segnale GPS che questo usava per orientarsi. Test di quest'ultimo tipo, peraltro, ne sono stati condotti parecchi, dimostrando quanto sia facile, anche con una strumentazione fatta in casa, prendere il controllo di questi apparecchi senza pilota. Uno dei problemi di fondo in questa partita è che tutto il sistema di controllo aereo nasce quasi esclusivamente con uno scopo: evitare che gli aerei vadano a sbattere l'uno contro l'altro, oppure magari finiscano per schiantarsi su un condominio invece che atterrare su una pista. Tuttavia, di questo sistema da sempre fanno parte integrante anche degli esseri umani che si trovano appunto a bordo degli aerei. Sono evidentemente i piloti che, in situazioni non previste, per esempio quando qualche sistema di bordo si guasta, sono comunque in grado di utilizzare l'intelligenza, la propria immaginazione per reagire. Ma per i droni aerei le cose vanno in modo molto diverso. Sentite. Per orientarsi e decidere cosa fare, un drone ha bisogno di tre collegamenti. Primo, un collegamento GPS che permetta al velivolo di sapere sempre dove si trova. Secondo, un collegamento con la stazione di controllo a terra, da cui il drone riceve comandi diretti come sali di quota o vira a destra o raggiungi la tal posizione. Terzo, un segnale, o anche più segnali, che notificano agli altri aerei la posizione del drone e al drone la posizione degli altri aerei. Se anche uno solo di questi canali di comunicazione si interrompe, il drone entra in crisi. Il problema è che tutti questi canali sono intrinsecamente deboli. Per esempio, è molto facile emettere finti segnali GPS che confondono l'aereo facendogli credere che sta salendo di quota e inducendolo così a schiantarsi al suolo, oppure facendogli credere che è fuori rotta, mandandolo così fuori rotta per davvero. Tecniche di questo tipo, basate sull'emissione di segnali di disturbo, possono essere usate per disturbare anche gli altri canali usati dai droni aerei per orientarsi, come le comunicazioni dirette con il centro di controllo e i segnali che gli altri aerei emettono per farsi identificare ed evitare le collisioni. La possibilità che qualcuno si impadronisca di un drone per dirottarlo al preciso scopo di fare danni non è l'unica sfida che soprattutto gli enti regolatori del volo dovranno affrontare nei prossimi anni. Grande preoccupazione c'è per esempio per la possibilità che questi oggetti armati di telecamere o macchine fotografiche ad alta definizione possano essere usati per violare la nostra privacy, e si teme persino che qualche cittadino americano fuori di testa decida di farsi il suo drone armato personale. Vi ricordo che i droni professionali più economici costano qualche migliaio di euro. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani, parleremo di telerilevamento, questa volta però da satellite. Buona serata.